mia vita è tutta qui. Il freddo dell'inverno se n'è andato, ma nel mio cuore chissà quanto resterà. Voglia di andare via, la nostalgia non so neanche che cos'è. Piangerò, piangerò. Domani è festa, non chiedo di più. Ho già capito che tipo sei tu. E non mi importa sapere che poi piangerò, piangerò. Ti ho rivolto la parola, anche se prima non ti avevo visto mai. Domani voglio uscire di nascosto e stare fuori tutto il giorno insieme a te. Poi tu partirai e non mi importa se non mi ricorderai. Piangerò, piangerò. Domani è festa, non chiedo di più. Ho già capito che tipo sei tu. E non mi importa sapere che poi piangerò, piangerò. Piangerò, piangerò.